quanto dura il mio minuto. 60, 75 secondi è il minuto. Dei miei tendini quanto dura, se devo far stare 75 secondi in 60. La presa mi confonde con un pezzo grezzo, raschi i miei pensieri per fissarci lo stridio che invade il cervello straziato e visionario. Ed io mi sento un rotore al centro della morte, tormito in un budello dilatato ed irreale. Immagino il reparto e cerco tracce fotografiche, compagni schiacciati, os direnati, cerco anche tracce della mia esistenza, così tanto per flagello al suono d'una fresa, compiaciuta e ripiegante in sé. Devo legarmi meglio, il mio corpo spesso si sdoppia e corre, corre. Dicendo, vorrei scindere da me acqua, terra, fumo, tutti gli elementi cosmici. L'ho dimenticato, pioveva, mi son bagnato e mi interrogo sul suo possibile significato. Silenzio. Torno, effetto materico sensibile. Cosa torno? Sì, un fondale dove gli uomini sono mori. Sognare, perire nella propria immaginazione. L'uomo totale. Penso, non riesco a sentire i miei pensieri, il rumore li sommerge. Sullo squamo un ectoplasma, una lista di pesce, la mia linfa vitale nel manufatto lavorato, la mia linfa vitale è in un brulichio di lamelle. Non so quanto dura il mio minuto. Vorrei misurarmi con l'estrema creatività delle vibrazioni della fresa, perché le mie sono spietate ma non totalmente disperate. Amen. Devo far presto. Qui la forza di gravità è una macchia insanguinata. Non voglio predisporre la mia vita al massacro. Qui persino la morte matrigna La mia schiena non è più disposta a subire itinerari estetici e turismi ideologici. La mia schiena non è più disposta a subire itinerari estetici e turismi ideologici.